lo usavo per esistere, che mi dice, che stai comprando un'altra radio? Ah, un'altra radio mia stai preso. Ho detto, cos'è che stai comprando? Ti ho sentito facendo prove. Vita nuova, cos'è? Se è più pendente, dica. G9, ah, quello che mi avevi detto a me. Sentire più bene, ti ho sentito, capì? Quando hai chiamato stavi facendo la prova, ma con l'antennino suo? Sì, sì, ti ho sentito, eravamo anche qua, sì, con l'antenna interna, perché con l'antenna sua. È stato goccia, poco? No, non ci fa troppo per quelle frequenze lì. Io non volevo uno di quelli che costano poco, capito? Sì, vabbè, in controbatti c'era anche il mio, anche di più, il Voxion. Capito? Però il Voxion che c'ho io, anche a Guba, costa 100 euro più. Però solo per fare PMR e LPD, boh, siamo una cifra troppo elevata. Ma vabbè, passiamo su 10 che ci fanno. Quanto?